Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new one's just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The new this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones, the world is so wrong. Buon Natale ancora, buon Natale da Blu Radio Veneto e soprattutto buon Natale da Agostino Spolaore, ma anche dal mio fedele compagno Maurizio. Buon Natale a tutti, sì, da Maurizio Calzavara. Che emozione quando si sente John Lennon in diretta, che emozione ragazzi. Buonasera, dicevo, da Blu Radio Veneto, buonasera da Agostino Spolaore, buonasera da Maurizio Calzavara e buonasera soprattutto dai nostri ospiti di questa serata, cioè i White Voices. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao. Ciao. Benvenuti anche a voi. Allora, prima di cominciare questa trasmissione, i nostri consueti dati tecnici. Questa è la vostra emittente, come dico sempre io, preferita, Blu Radio Veneto. Il nostro sito è www.bluradioveneto.it. Ve l'ho detto subito perché motivo: perché questa sera, oltre a sentire lo streaming audio, c'è anche lo streaming video, quindi potete vedere i nostri artisti, i nostri amici, i nostri compagni di viaggio in questa serata, trasmettere le loro canzoni e fare ascoltare la loro voce, che insomma sono voci talmente belle che insomma non serve tante presentazioni. Poi insomma Rita, Laura, Marco, insomma sono voci già ultra famose. Poi c'è Alessandro e c'è anche Andrea. Allora, il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms è il 346 23 20 033. Se ci ascoltate il giorno di Natale, questa è una trasmissione registrata, quindi non telefonate, non mandate messaggi il giorno di Natale. Allora, Maurizio, che mi racconti di bello? Sei che tu euforico? Sì. Dunque, una cosa, un'idea di 3 mesi fa questa, o quasi. Io ho scritto sulla recensione, sull'inizio, sulla presentazione, abbiamo scritto a furor di popolo. Addirittura. Addirittura a furor di popolo. Siamo perché, onorati. Ecco, anche noi. A furor di popolo abbiamo voluto fortissimamente stasera questo ritorno da parte vostra, ritorno nell'ottica della festa di Natale, nell'ottica delle vostre canzoni natalizie. Noi siamo molto contenti, davvero, eravamo molto emozionati quando ci avete invitato, siamo stati contentissimi l'anno scorso e siamo ancora più contenti quest'anno. È stata una delle trasmissioni più seguite l'anno scorso, siamo stati invasi veramente da sms e ci ha fatto un mondo di piacere. Moltissimo, hanno detto, non siamo andati neanche usciti fuori, non siamo andati via, ma siamo rimasti a casa. Che bello, grazie. Veramente. E quando si inizia con John Lennon? C'è niente da fare, si inizia con John Lennon che li abbiamo conquistati proprio in partenza. Questo non era un canto natalizio, ma è diventato tuttora una canzone di Natale. John Lennon l'ha scritta come canzone di Natale, è una canzone di pace, ma è diventata essenzialmente un canto natalizio al 100%. È vero. Un classico praticamente. È vero, magnifico classico. Esattamente. Allora, questa serata cosa ci sarà? Ci sarà, praticamente il tema sarà quasi unico, nel senso che trasmetteremo, faremo sentire le canzoni natalizie, non solamente, magari anche le carole, quindi un po' meno conosciute, e poi daremo spazio anche a qualche loro esibizione. Qualche brano soul, qualcosa di... Poi qui c'è anche un'esclusiva di Marco, che ce la regalerà più tardi. E tante sorprese, insomma. Insomma, stasera sì. Poi abbiamo un ascolto, siamo ascoltati in America, negli Stati Uniti, da Omaha si chiama, Danny Newton e Merlin Berglas sono due artisti grandissimi che si stanno ascoltando e che poi Oddio, faremo ascoltare paura. Anche la loro voce. Che salutiamo. Abbiamo delle esclusive da Genova e da Brescia, insomma abbiamo veramente, ne abbiamo tantissime questa sera, non proprio bisogna assolutamente ascoltare. Ringraziamo il nostro staff allargato stasera via delle telecamere, Roberto e Michele, che stanno cercando giustamente di far andare questo mezzo straordinario che sono le telecamere. Abbiamo deciso, Rita e Laura, avete deciso di fare una cosa molto bella dopo il pezzo classico di John Lennon, un altro pezzo classico. Questo è un classico dei classici, possiamo dire. Così? Sì, confermo. Sì, ci buttiamo in un brano a cappella. E, proponiamo Silent Night, che è un brano cantato da tutti almeno una volta nella vita, e decidiamo di farlo proprio solamente con le nostre voci e solamente il ritornello. Ci piace cantarlo un po' come sigla iniziale dei nostri concerti natalizi. Siete pronte? Prontissime. Pronti. Che dolcezza, Maurizio. Che bellissimo, dolcezza. Bellissimo. Una giusta presentazione, un giusto inizio per un concerto di Natale, che andrà avanti fino alla mezzanotte, abbiamo tempo. Quindi, ok, benissimo. Adesso... Ma chi sono questi White Voices? Cosa fanno? Cosa ci raccontano? Chi sono? Cosa fate? Allora, cosa noi cantate? Siamo soprattutto amici, questo teniamo, ci teniamo sempre tanto a dirlo, ci conosciamo da un po' di anni, insomma abbiamo cominciato a lavorare un po' di anni fa insieme in un altro contesto e grazie alla musica appunto ci siamo conosciuti e abbiamo, niente, abbiamo cominciato a fare fondamentalmente matrimoni, facevamo, siamo partiti proprio facendo matrimoni in chiesa. Ci siamo tanto divertiti, devo dire che è stato proprio un punto di partenza molto molto bello. Cosa dici Marco? Sei d'accordo? Assolutamente sì. Alla fine, quasi per scherzo, poi ad un certo punto abbiamo deciso di espandere appunto il nostro repertorio a qualcosa che fosse quello per cui noi... Il soul. Esattamente. Viviamo quasi. e niente, alla fine abbiamo deciso appunto di, ecco, di avventurarci... facendo date ovviamente anche aperte al pubblico, perché giustamente insomma in un matrimonio... Se non c'è il pubblico noi non siamo qua, giustamente. No, è grazie al pubblico che siamo qua, visto che ci avete detto che siamo stati chiamati a furor di popolo. Sì, sì, a furor di popolo, noi a furor di popolo, io e Agostino e tutti gli altri abbiamo deciso a furor di popolo che... Dovevate fare una replica, una bella replica. E noi, una seconda noi vi ringraziamo di cuore. E speriamo anche che ce ne siano anche tante altre. Insomma. Ah, indubbiamente. Beh, insomma, le porte sono aperte quando ci sono le belle voci. Avete mai pensato di fare qualcosa di vostro, proprio di canzoni proprio vostre? Come band parlo io. Sì, Marco scrive. Sì. Scrive e se le canta anche. Sì, poi ogni volta gli diciamo, ascolta, cerchiamo di fare qualcosa insieme, magari fai ascoltare anche a noi. Ci fa ascoltare, ma poi dice, no, è meglio di no. Invece è un timido, delle cose molto belle. Perché la Rita non è tanto brava a cantare, quindi pensavo che sì, dovrei scegliere. Diciamo, sono dei brani sprecati per noi, praticamente. Ma avete in mente qualcosa, a parte gli scherzi, comunque? Bisognerebbe lavorarci, diciamo che... Ci vuole qualcosa, tempo. Cioè, ho tante cosine in cantiere, ma sono tante idee. Alla fine il problema attuale effettivamente è il tempo, ragazzi, qua c'è gente che lavora e quindi si suda 8 ore al giorno. Sì. Sì, no, diciamo sì. Anche che magari siamo anche sempre presi da concerti, perché fino a qualche anno fa magari riuscivamo a fare solo a coprire bene la stagione estiva e un po' il mese di dicembre. Adesso stiamo cominciando ad ingranare bene, per fortuna, quindi facendo un tante date, ci dedichiamo magari alla preparazione del repertorio che più delle volte è conosciuto, quindi il pubblico, certo. Preferiamo fare delle cose che la gente ascolta anche perché le conosce e quindi poi ci perdiamo sempre e non ci impegniamo mai su qualcosa che potrebbe essere sicuramente più creativo. Ecco. In ogni caso speriamo che il 2012, visto che tutti quanti chiamano la fine del mondo, in realtà i positivi dicono che sia un cambiamento in positivo, nel senso che ci sarà del movimento e magari anche noi... L'inizio di una nuova, possiamo dire l'inizio di una nuova fase. Esattamente. Ecco. Esattamente. Non la fine del mondo, ma assolutamente l'inizio di una nuova fase. Esatto, e quindi insomma ci affidiamo all'inizio di questa nuova fase mettendoci anche un po' di buona volontà. La musica è sempre una nuova fase, cosa dici? La musica è sempre una nuova fase, è sempre un cambiamento, è sempre un costruire, un trovare, un cercare, un sviluppare. Assolutamente sì, anche nel senso cover del termine, anche perché... voglio dire, tanti non amano molto le cover, cioè vedono la musica originale come l'unica cosa originale. In realtà io ho sempre pensato che una reinterpretazione è sempre qualcosa di originale, che può arricchire, può anche non arricchire un brano, ma è sempre comunque qualcosa di personale. Sì. Io sono dall'altra parte, Marco, perdona. Sì, dall'altra parte? Sì, nel senso che preferisco le cose originali, insomma. Ma quello è ovvio. Anche perché è l'anima dell'artista, è quello, insomma. Sì. Però sì, io credo che ci siano anche diversi tipi di artisti. Vedo molti artisti che magari fanno la cover e diventano visibili a più persone. Forse perché la cover è anche un modo di comunicare magari diverso, forse più sicuro a volte. Però diciamo che se non ci fosse il passato non ci sarebbe neanche il presente. Quindi la cover è forse un innalzare quello che più ci piace e poi magari da lì avere la scintilla che ci porta a creare qualcosa di nostro. Certo. Poi in realtà ci siamo trovati diverse volte a prendere un pezzo magari conosciutissimo, stragettonato anche da persone che l'hanno rifatto nella storia e ci abbiamo perso delle serate intere parlando, riflettendo, vedendo come cambiarlo e discutendo anche, perché non è che le nostre prove siano sempre rilassate, ci troviamo a avere anche confronti abbastanza accesi. Ale ne sa qualcosa. I musicisti sanno. Ne ho vissute tantissime, però in altre situazioni, però io voglio bene lo stesso. E quindi insomma è il lavoro che ci sta dietro anche nel rivedere insieme poi a più voci, che comunque per quanto siamo amici da anni è sempre un nuovo inizio, riassemblare tre voci o anche quando lavoriamo con altre persone in modo che ci sia un'amalgama perfetta e una resa ottima. È una cosa volevo chiedervi, c'è differenza tra i pezzi natalizi e gli altri pezzi? Come c'è difficoltà a ricreare lo stile natalizio oppure le difficoltà si superano facilmente? Ma forse in realtà nei brani di Natale è più difficile, più che altro perché alle volte risulta, cioè può risultare scontato. Sì, esatto. Quindi la gente si può capire che il pezzo è scontato. Esatto. La bravura vostra di che non sia scontato il pezzo. Esattamente, sì, sì, lì diciamo c'è bisogna mettere, sì, bisogna metterci del nostro. Proprio, esatto. Esattamente. Lì proprio fa la differenza all'interpretazione e quanto riesci a far calare nello spirito natalizio le persone. Noi vediamo il più delle volte, anche facendo brani come quello di prima, quindi Happy Christmas, la gente proprio cambia subito anche l'espressione del viso, se ovviamente sei bravo a comunicarlo. Noi non diciamo, cioè noi non siamo bravi a comunicarlo, però ci mettiamo sicuramente la nostra anima e forse la maggior parte delle volte questo un pochino viene fuori, quindi se si crea quell'atmosfera giusta, poi noi veniamo, siamo anche fortunati perché veniamo chiamati nei concerti dove c'è già la serata a tema Natale. Certo, certo. Quindi la gente si prepara anche e sa già che sa già è tutto improntato sul Natale. Esattamente. È anche più semplice, poi insomma fa la differenza comunque come vengono interpretati sicuramente. In Italia non c'è molta però la voglia di fare dischi proprio di Natale, i cantanti italiani intendo. Si cantano, vero, sì, effettivamente... si cantano tantissimo, però che facciano che a me viene in mente Irene Grandi, se non sbaglio. Sì, ha fatto un disco l'anno scorso. Adriano Celentano negli anni 70 con Il Forestiero, sì. Ma poi c'è tantissimi altri dischi, non esiste, perché non c'è la tradizione. Non c'è la tradizione. Non è un paese anglosassone, i paesi anglosassoni hanno la tradizione dei canti natalizi. Sì, oltre che la tradizione, io credo che dipenda anche proprio dalla commercializzazione, sì, cioè certo. Lì probabilmente c'è una un'utenza musicale che mangia di più. È vero. Qui invece mangiamo per però sottecchi. Se guardi bene, li fanno tutti. Quest'anno Michael Bublé, cioè... Ma è canadese. No, voglio dire, li fanno tutti all'estero. Certo, all'estero. Per loro è una cosa... Io mi ricordo, io amo da matti Teddy Pendergrass, anche lui l'ha fatto un disco dedicato a Natale. Ci mette la sua voce, le sue cose, fa cover... Però ho fatto un disco di Natale, come fanno tanti, invece in Italia pochi. No, pochi. Peccato, perché è una bella opportunità anche per vendere. Insomma. Sì, credo sì. Dipende anche proprio dalla sensibilità personale dell'artista. Insomma, adesso c'è un po' in Italia anche un melting pot di cose che è difficile capire se una persona comunque ci tiene effettivamente a quello che è appunto una tradizione come Natale, che comunque è di stampo effettivamente cristiano-religiosa. E quindi lì... bisogna vedere. Anche perché il pubblico abbiamo visto che richiede tantissimo le cover dei brani natalizi, i più classici. Quindi vuol dire che anche qui in Italia non è che non ci sia la richiesta di questo genere, e soprattutto in questo periodo, poi alla fine diciamocelo, ognuno il Natale lo sente in modo forte anche grazie alla musica, poi in radio si sente tantissimo. Certamente, Agostino ha citato i paesi anglosassoni, quindi gli artisti stranieri. Dobbiamo ricordare che i Beatles, anche i grandissimi, amatissimi Beatles, dal 62 al 69 hanno inciso dei dischi per i fan club, tutti natalizi, e qui sono rarissimi, dove c'hanno parole, sketch e musiche di Natale dal 62 al 69, cioè gli aderenti al fan club ricevevano in omaggio questo bijou dei Beatles, questo regalo dei Beatles, magari ne avessi uno. Ok. Allora facciamo un po' di pausa, sì, con voi o volete cantare ancora qualcosa dal vivo? Cosa volete fare? No, possiamo anche cantare se volete. Volete cantare dal vivo? Sì. Cosa ci fate ascoltare allora? Vi facciamo sentire Eno Mountain, che invece ripesca un po' quello che siamo noi nella nostra essenza, una canzone che ci portiamo sempre dietro perché ci rappresenta in un genere che sicuramente, insomma, dalle prime note sentirete e con cui alla fine siamo anche nati e soprattutto cresciuti. Okay. Eno Mountain. Ok. Mai sentito. Che voglia di cantare, di muoversi, di ancheggiare. Sono seduti, ma comunque vi possono vedere, vi stanno vedendo, anzi. Se noi non riusciamo a... Ecco, scusa, parlo di qua. Ecco, non riusciamo a stare fermi, in realtà. Cioè. Ma quello è un difetto di fabbrica, nel senso che moltissimi cantanti sono come voi, cioè è difficile restare fermi. Poi è anche bello, insomma, avere un po' questa voglia di far capire a tutti che, insomma, che state cantando con l'animo, con il cuore, insomma. Vi ricordo, Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente in questo preciso istante. Agostino Spolaore e Maurizio Calzavara vi stanno regalando questa serata dedicata a Natale con le canzoni cantate soprattutto dai White Voices, che è un gruppo, una band qui di Padova, formata da 5 elementi. E li abbiamo tutti e 5 qui, quindi siamo felicissimi e onorati. Li sentite assolutamente in acustico e assolutamente dal vivo. Vi ricordo che li potete vedere andando semplicemente nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, cliccando su diretta video potete vederli, e invece diretta streaming potete anche ascoltarli, diretta ascoltando la radio, insomma, ma con le telecamere potete sia vederli e anche ascoltarli. Abbiamo questo regalo, ci siamo fatti un regalo, abbiamo ripreso le nostre visioni, così, degli artisti. Le nostre buone abitudini. E quindi questo è un onore che ci fa veramente molto piacere regalarvi. Questo era un brano gospel, però quello che avete fatto in questo momento, molto vivace, molto con molta grinta, posso dire così? Assolutamente sì. Mm. Sì. Molto feeling, dire. Quella è la parola giusta, il feeling. Sì, è un brano che a noi piace molto, comunque ci piace farlo insieme, non lo facciamo da tanto tempo, forse è il secondo anno che lo riproponiamo, non è... Sì. Però veramente l'abbiamo inserito molto volentieri, perché dà proprio l'idea della grinta, insomma. Sì, soprattutto se si pensa al film, no? Certo. Laura, come sì, puoi ben spiegare, lei è l'esperta del film in particolare, l'avrà visto quante volte? 10, 15. non le conto. Non l'hai contato. L'ho visto da sola, l'ho visto in compagnia, l'ho visto in famiglia, in gruppo, cioè l'ho visto in tutte le salse. E poi musicalmente è eccezionale. Qual è il film? Perché non l'abbiamo forse citato, vero? Esattamente. È Sister Act. Stiamo parlando di questo, sì, giusto? Sì. No, che dopo non... no, bisogna dirlo, no, perché chiaramente. Perché quando si parla di Sister Act, rizzo le antennine. E quindi pescare i brani di questo film, a parte che solo per noi averli sempre sentiti e non aver mai potuto inserirli in qualche occasione era quasi una sofferenza. Poi appena abbiamo deciso di inserirne uno, il primo che abbiamo fatto, che è I Will Follow Him, sì, e l'abbiamo proposto in una serata, in un concerto... Bellissimo, volevo dire che ci siamo divertiti tantissimo in quel contesto, che era cos'era l'Ortone Fest. Ah, sì, l'Ortone, quindi di sì, tutt'altro l'Ortone genere Fest. Decisamente non esattamente natalizio, è stato un tripudio di folla, quindi poi alla fine non siamo neanche più riusciti a separarcene, e penso che rimarrà anche questo uno dei nostri cavalli di battaglia, perché è bellissimo vedere la gente che canta con te e entusiasta, perché alla fine siamo tutti animati dal ricordo di un film che ha portato, che porta grande gioia e allegria. È un po' il discorso di prima che facevamo, certo, che sì, quando la gente conosce bene il pezzo, ovviamente lo conquisti. Si muove, la gente si muove. E quando la gente si muove vuol dire che il pezzo è entrato immediatamente. Sì. Bene, io direi di farli riposare. Sì, facciamo riposare un poco, dai. E facciamo ascoltare qualcosina già subito. Sì. Regaliamo una delle nostre esclusive. Allora, non è proprio natalizia la canzone, però credo che lo spunto sia proprio adatto per quello che è successo qualche giorno fa, anzi qualche tempo fa. Qui a Genova, in Italia, c'è stata questa alluvione che ha fatto un disastro enorme. E, una band genovese ha pensato bene di fare una canzone, l'ha pubblicata ieri o l'altro ieri, proprio freschissima, l'ha messa in circolazione, si chiamano Black Roses, è una band completamente femminile, quindi è un onore per voi, e ha fatto questo 45 giri, una volta si diceva, ha fatto questo singolo, questo si dice singolo, adesso, esatto. Che si chiama Angeli del Fango, l'ha dedicato agli operatori, insomma, che hanno dato una mano a questi poveri alluvionati, e hanno fatto questa canzone che è stata presentata appunto al Disco Club, storico negozio di Genova in via San Vincenzo, dove è stata una delle zone più colpite, insomma, se non sbaglio. C'era questo set e loro hanno presentato questa canzone. Ce l'hanno fatta avere, ce l'hanno fatta pervenire, noi le salutiamo. Tra l'altro prossimamente dovrebbero venire a fare anche un live in acustico qui da noi. Quindi le aspettiamo con le braccia aperte. Ciao ragazzi, un bacione, un tantissimo auguri di Buon Natale da tutta Blu Radio Veneto. E facciamo ascoltare questa Angeli del Fango, Black Roses. Per pregare siete Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E dimenticavo di dire alcune notizie inerenti a questa canzone, cioè questa è un singolo che verrà abbinato a La verità appartiene al cielo, che è l'album che è uscito a giugno, sempre delle Black Roses, e costerà 10 euro, e il ricavato andrà interamente all'arcidiocesi di Genova Caritas diocesana emergenza alluvione Liguria. Quindi loro confidano moltissimo nelle vostre disponibilità e anche la volontà, insomma, di acquistare questo singolo dedicato interamente a questi angeli del fango, insomma. Black Roses, tra l'altro, hanno anche un altro obiettivo loro, vogliono andare a Sanremo, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Io gli mando veramente con un affetto, un grande, grandissimo augurio che possa venire quello che loro vogliono fare, cioè di partecipare al Festival di Sanremo. Un saluto e un ringraziamento a Corrado, il loro produttore, perché ci ha fatto avere questo disco, questo singolo. So che ci stanno ascoltando, quindi soprattutto alla Giulia, le altre non le conosco, ma insomma Giulia, un bacione grande, è la voce del gruppo, che speriamo di avere qui a Padova prima o poi, insomma. Black Roses. E gli ascoltatori lo sanno, però adesso lo stanno vedendo, perché io sono proprio nella fossa dell'orchestra praticamente, assieme alla band. Una volta c'era la fossa dell'orchestra, è una situazione molto bella, molto feeling, da trasporto. Io sono proprio dentro alla musica in questo preciso momento. Sono molto soddisfatto di ciò, assolutamente. Ti stai vivendo anche un po' le nostre ansie. Eh sì, è vero, cioè, le ansie, quando un musicista suona, canta, si deve... Ci sono i momenti, ci sono gli effetti, cioè l'occhio viene posto in una certa maniera perché il compagno deve sapere che l'accordo deve essere così, l'incastro perfetto. Certo. Ma è bello così, è tutto dal vivo, non c'è niente di registrato, è tutto dal vivo. E la bellezza del live è proprio questa. Sì. C'è poco da fare. Anche gli errori. Perché no? Anche gli errori. Il grande Bob Dylan, in tutti i suoi dischi ci sono tantissimi errori di Dylan, ma era Bob Dylan. Ed è Bob Dylan, cosa vuol dire? Gli errori fanno parte della musica. Noi siamo i White Voices, no? Esattamente, gli errori fanno parte della musica, assolutamente. Poi, insomma, alla fine, da un errore può anche nascere una versione diversa. Perché certamente. L'errore può essere la stecca, può essere anche una nota, quella che poi diventa la versione più bella del brano di Dylan. Certo. Ovviamente fatto da Dylan. Ovviamente. Io ricordo sempre i nostri numeri telefonici, quello in studio 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 0 33. Se ci state ascoltando, ripeto, il giorno di Natale, che sarà trasmesso in replica, appunto non saremo in diretta, e non lo siamo, insomma, se ci state ascoltando quel giorno lì. Ma lo siamo adesso, quindi se volete mandare qualche sms, qualche messaggio, qualche saluto a questi grandi amici, soprattutto, liberissimi di farlo, anche magari ci fanno qualche domandina, no? Non fa male, insomma, giusto? Volentieri. Magari qualche etichetta, qualche produttore che vi vuole ingaggiare per fare qualche disco. Magari. Sotto l'albero di Natale c'è anche questo regalo. È già successo, sai, Sì, con un pianista sempre di Genova, guarda caso, che tra l'altro si è sposato oggi, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo, Alberto, ciao, e anche Giovanna. E 2 giorni dopo che aveva fatto il live qui, sì. Poi un'etichetta l'ha chiamato e ha fatto il disco. State diventando anche dei talent scout. Cosa vuoi? È la magia della radio, anche questa. È la magia vostra, non è la magia della radio. No, è la magia della radio, non è la magia. È la magia della radio. È la magia della radio, di come la fate voi, secondo me, perché ci sono pochi che danno spazio. Ed è davvero una cosa, da parte mia, grandiosa. Poi soprattutto avervi qua vicini e ogni tanto poter cambiare il pulsantino. Il canale della radio, sentire voi che comunque fate sentire qualcosa di nostro, o nostro intendo comunque nazionale, perché poi sì, voglio dire, in radio è difficile, alle volte scappo, comincio ad ascoltare cose tipo EFN. Lo so, ma noi abbiamo... Perché almeno fanno qualcosa di un po' meno pop italiano. Ma questo spazio è dedicato proprio alle figure emergenti, diversi generi musicali, ma le figure emergenti, è proprio la nostra convinzione, portarli là e portare... La gente deve sapere che non esiste solamente i grandi divi. Io cito sempre Lady Gaga, purtroppo, ma non esiste solo Lady Gaga, ci sono tante altre Lady Gaga, e forse anche più brave di Lady Gaga, non hanno avuto le possibilità di diventare Lady Gaga, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Sono d'accordo. Maurizio, dimmi, cosa facciamo? Sto parlando di Lady Gaga. Sì. No, suoniamo, cantiamo, facciamo... Abbiamo ripreso, cioè, Maurizio. Maurizio. Ma lui è il conduttore, il conduttore. Il conduttore deve riprendere il co-conduttore. Sì. Cosa volete fare? Volete adesso fare... noi cantiamo. Davvero? Siamo qua anche per questo. Sì. Quindi cantiamo. Cosa cantate? Un brano molto bello, un brano che a noi piace molto. Ce l'ha fatto conoscere una nostra amica, lo diciamo sempre perché altrimenti potrebbe offendersi. Ed è un brano gospel, si intitola Holy. Ok. Voice and I will sing. I will sing, Holy, my Lord, holy. To my Lord and Savior, my God and King, I will sing, Holy, I will sing, Holy. Upon the throne, I will worship Him and give the praise to Him alone. He who was and is to come, I will sing before His throne forever, forever. I will sing holy.

Vecchioni. Oltre a questo, è un pezzo storico, classico, tedesco. Anche Vecchioni adesso è in classifica nuovamente con un'antologia, una raccolta che è appena uscita, dove c'è un inedito e una rivisitazione di Lucia San Siro per gli interisti. Va bene, va bene. Grazie, grazie per averci riscaldato il cuore con questa canzone, Anna e Claudio Enrica. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Sono all'ascolto. Un salutone anche a Patrizia che ci ha mandato un messaggio tramite Facebook, che è in ascolto anche lei. Ciao Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao. È una cantante. E poi chi c'è? Ah, la Chiara, è arrivata la Chiara. Ciao Chiara. Ti stavamo aspettando. Hai visto? Allora, questa Oli, da dove salta fuori questa canzone? Oli è un brano di Donny McLaughlin. È un brano bravissimo, tra l'altro. Sì. Eccezionale. Che voce. Ogni tanto l'ho posto anch'io, sai. ho visto. È vero. È bellissimo perché il Facebook di Agostino è una fonte inesauribile di musica. Ah, sì? Quello che non pensi che possa esistere lo trovi in una bacheca di Agostino. Ecco, grazie. Ed è fantastico. Grazie. Perché, cioè, trovo delle sorprese alle volte allucinanti. Oli comunque è un brano, è il brano gospel. Adesso non mi addentro di più perché di recente abbiamo avuto parte di un'esperienza dove ci è stato spiegato molto a riguardo e in che momenti della messa vengono fatti alcuni brani. Questo è uno di quei brani che arrivano quando tutti sono pronti per ricevere lo Spirito Santo. Esatto, noi andiamo e facciamo la comunione, c'è il brano, la comunione, quando c'è la messa cantata, lì entrano proprio in contatto con il divino, come effettivamente... È il gospel, come sì. Lo usano. Cioè è il fine, alla fine del gospel, insomma, gospel significa appunto Vangelo, quindi più di così. Certo. E niente, questo è appunto uno di quei brani che vengono inseriti alla fine. Normalmente le scalette tipiche di un concerto partono con dei brani magari più tranquilli per poi arrivare all'esplosione finale. Nel gospel invece c'è un po' un ribaltamento, nel senso che si parte con molto movimento e poi si arriva a... Questo non ci avevo mai fatto caso, sì, che li ho visti di concerti. È una novità, l'abbiamo scoperto anche noi da poco e lo stiamo scoprendo studiando insieme. Seriamente il gospel. Lo stiamo proprio approfondendo. Ma chi studiate? Kirk Franklin, Kurt Kerr? Ma un po' no, tutti, nel senso che... Cioè, non particolarmente... A me piace da matti Yolanda Adams. Hai detto niente. Qui lascio la parola alle donne. In ogni caso, comunque, sì, è un brano al quale non appena Barbara ce l'ha fatto scoprire... Mm-hmm. Cioè, ci non siamo abbiamo innamorati. Più mollato. No. Chiaro che è un brano che va eseguito, cioè c'è il preacher, il master of ceremony o comunque chi guida la cerimonia che ovviamente è il cantante solista, tra virgolette. In realtà è una figura molto più importante del cantante solista nel gospel e va cantato con un mass choir, quindi è un po'... Cos'è un po' riduttivo. Mass choir è un coro. È un coro di un centinaio di persone che c'hanno. Noi che siamo ignoranti. Che c'hanno un vocione tanto. Un coro di massa. Un gruppo di massa. Ci stanno facendo capire come si fa. Cioè, si fanno determinate cose. No. Diciamo che lo svolgimento di questo brano sarebbe questo. Poi è chiaro che noi ne abbiamo fatto una versione pocket perché era impossibile, diciamo, portare qui 40, 50, 60 persone. Allora abbiamo detto condensato. Solo noi tre, esatto. Vabbè, insomma, e che tre, insomma, che tre. Allora, sì. Alessandro, tu parli poco questa sera. Presente, sì, ma, tu che ma sei, ci sono però, tu che sei il prezzemolo di Padova, insomma, giusto? Grazie, no, grazie, bellissima definizione. Stasera sono azzurro, mi adopererò per diventare un po' più verdino prossimamente. Dai Dream Theater al gospel. Esatto, sì, a ben vedere anche i Dream Theater hanno qualcosa di gospel nel loro Scenes from a Memory. Giusto Marco, lo sai sì. Anche tu. Assolutamente. C'è una canzone sì. Che si chiama The Spirit Carries On, che anche live è cantata addirittura con il coro gospel e il live, quindi... Mm-hmm. Non è cambiato più di tanto, dai, Dream Theater, White Voices, sempre gospel, lo troviamo sempre, non c'è problema. Insomma, tu sei dappertutto, insomma, quante attività hai? in piedi? Beh, al momento ne ho circa troppe, però, però no, lo faccio con enorme passione, con, questo con, è fuori dubbio, con tanta voglia, e, va benissimo, ho tantissime formazioni in numerose, c'è anche Mister Marco Mengato, perché vabbè, con lui ho un'amicizia che mi lega da molto, molto tempo, e ho tanti progetti, in primis ovviamente Calicanto, che cito ogni volta. Ci sono stati qui. Sì, siamo stati qui. Esattamente. Alessandro Tombesi Ensemble, che è un ragazzo sedicenne, un arpista, che ha debuttato quest'anno nel mondo della musica, e il suo CD ha tra l'altro vinto 3 premi nazionali, lo dico perché insomma sono contento di aver fatto parte di questo grande lavoro. E niente, tante altre piccole realtà che piano piano cerchiamo di far emergere dalle sabbie di Padova, che sono sempre un po' mobili, però ce la facciamo. Ma tu sei un grande. Tu sei. E nel frattempo, se posso, do un grande saluto ad Antonella Cozzolino, con la quale ho un altro progetto, ma in realtà abbiamo tutti collaborato con lei ultimamente. E poi un grande abbraccio. Momento, lo dovevamo dire, ma l'ha detto prima lui. Vabbè. Ah sì? Diciamo, ecco, vedi, si mettono d'accordo senza di me, non me lo dicono, io non sapevo, però un abbraccio da parte di tutti, credo sia scontato. Ciao. Ciao Antonella. Ciao Anto. Che poi tra l'altro è una mia vicina di casa, l'ho scoperto una settimana fa, sì, ti giuro, non lo sapevo. L'ho scoperto una settimana fa, ci siamo trovati per caso, cosa ci fai qua? Abito lì, abitiamo proprio vicini. Allora, a questo punto ci cantate? O volete fare ancora pausa? Sì, cantiamo. No, cantiamo. Cantiamo due pezzi che non c'entrano niente con il gospel, se così si può dire. Ci fate quello che avete provato prima? E facciamo quello che abbiamo provato prima. Quello che... Esatto. Allora, facciamo che parliamo dopo di questi due brani. Li facciamo prima? Sì, facciamo. Vabbè, allora facciamo. Non ci stai? No, sì, non, sì, serve, sì, non serve in teoria. Dico solo Toto. Dico Toto e dopo non dico più niente. Sì, sì, sappiamo tutto. Ok. Just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I am needed for your love. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you, you're my only boy. I'm not the only one that holds you. Ever should have told you, my only boy. Just think how long I knew ya. It's wrong for me to owe ya. Look and keep. It's really not confusion. It's just an hung illusion. Can't you see? I'm not the only one that holds. You. I never ever should have told you, you're my only boy. You're my only girl. I know the only one that holds you. I never ever should have told you, you're my only world. Everybody singing, Georgie, Borgie, put him by. I kissed the girls and made them cry. Georgie, Borgie, put him by. Kissed the girls and made them cry. Kiss the girls and made them cry. Kiss the girls and made them cry. Thank you. should have told you my only word. Everybody's singing, Georgie, Porgie, Pudding Pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Pudding Pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Pudding Pie. Kiss the girls and make them cry. Kiss the girls and make them cry. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Pudding Pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Pudding Pie. Kiss the girls and make them cry. Girls, I made them cry. Wow. Versione soul, incredibile. Permettetevi, permettetemi di presentare una persona a noi molto speciale in questo periodo, devo dire, che è il nostro pianista, Andrea, certo. Badan. Volevo fargli una domanda dopo. Ah, ok, bene, quindi ti ho introdotto. No, ma figurati, no, anche perché finisci. Allora, niente, volevo appunto ringraziarlo in nome di tutti, perché è stata una scoperta in questo periodo. Noi abbiamo appunto presentato, abbiamo preparato uno spettacolo, ed è lo spettacolo di cui accennava prima, di cui parlava prima Alessandro, in compagnia di Antonella Cozzolino. Per noi è stata veramente una bella scoperta fare una cosa tutti insieme. Abbiamo presentato questo concerto il 4 di dicembre in chiesa Stra, ed è stata una cosa veramente bella, cioè a noi è piaciuta tanto, e spero anche le persone, c'era un bel po' di persone insomma che sono venute ad ascoltare questo concerto, e abbiamo scoperto lui, Andrea Badan, e è veramente permettetemi di dirlo, veramente un grande, grazie, un grande, grazie sì. Andrea, veramente è stato un grande, che ha proprio introdotto All the Line dei Toto in maniera estremamente vivace, e vi ha trasportato, devo dire sì, che non l'avevamo neanche provata prima di farla, perché è la prima volta che Andrea fa questo repertorio con noi, quindi il bello di Andrea è che è una persona estremamente empatica e anche musicalmente parlando, e ci si riesce a capire benissimo partendo da accordi pressoché nulli, perché siamo comunque, tendiamo a essere in alcune situazioni anche molto all'ultimo momento, quindi noi siamo abituati con uno sguardo a capirci e a capire anche dove dobbiamo cambiare, quando dobbiamo fermarci. E Andrea è entrato da subito dentro al gruppo e è riuscito ad amalgamarsi perfettamente. Questa è una cosa che non capita spesso. Certo. E posso testimoniare agli ascoltatori che ti stanno vedendo che io ho sentito due volte la replica, perché ho voluto fare la replica di All the Line da parte sua. Splendido, ha attaccato immediatamente, voi immediatamente siete accodati a lui senza nessun problema, qualche secondo prima di iniziare la diretta. È già diretta anche quella, secondo me. È la musica, è la musica, questo è il potere della musica. Abbiamo un'altra esclusiva, ce la consentite adesso? Ci sei in linea? Ci sono. Ciao Elodea. Ciao, un bacio a tutti voi. Ciao Elodea. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Marco, sai chi è Elodea? Ti dice niente? Sì, che lo so. Ho come idea che sia, dimmi, una vincitrice. Brava. Brava, va bene, perché c'era quella sera. E lo dai, sai che Marco c'era quella sera a vederti qui a Padova? Davvero? Complimenti, tra l'altro. Complimenti. Grazie. Era nel pubblico, solo che non è venuto a salutarci. Allora Lodea, benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie. Perché, grazie mille. Perché sei qui? Perché hai fatto un disco di Natale. Sì. Che è uscito in questi giorni, anche il tuo? Non è stato pubblicato, nel senso che per ora si trova sul mio sito, quindi si può ascoltare lì e anche su Facebook. È uscito circa una settimana fa e contiene sei brani. Sì, sì, continua, fai pure. Ah, ok, allora quello che ascolterete dopo, come mi hai detto tu prima, è sì. Baby It's Cold Outside, che è un brano dove canto insieme a un altro cantante, Giancarlo Prandelli, che è anche il mio produttore per i miei brani inediti. Diciamo che è stata sua l'idea di fare questo piccolo, diciamo, disco di Natale come regalo a tutte quelle persone che soffrono, perché comunque ci sarà un'offerta libera a chi vuole donare. Tutto questo verrà devoluto a un'associazione bresciana che vuole stare anonima, però che fa del bene, diciamo, anche sotto le feste. Perfetto. E che canzoni ci sono oltre a Baby It's Cold Outside? C'è Alleluia, so di... Alleluia sì, che non è una canzone prettamente natalizia, però diciamo che in questo periodo si canta di più. È una canzone che io amo tantissimo. E anche Maurizio, anche Maurizio. Sì, ho sentito che hai fatto una bella versione del pezzo di Leonard Cohen, anche se tutti pensano che sia di Jeff, esatto, Buckley, ma è di Leonard Cohen, anche se Jeff Buckley l'ha reinventato, proprio di reinvenzione dei pezzi. Una cover, sì. Che cover, ragazzi, ha fatto una cover, che non è una cover, è un pezzo suo praticamente. Sì. Sì, praticamente sì. Quindi è un brano che io adoro tantissimo e ho voluto inserirlo come anche primo brano del disco. Poi come seconda traccia c'è appunto Baby It's Cold Outside, un pezzo cantato dalla Fitzgerald ancora negli anni 50. E poi il terzo brano è Christmas Is Here, che non canto io ma lo canta Giancarlo Prandelli. E la quarta traccia, adesso mi sfugge un attimino, è Grow Up Christmas List, esatto, che hanno cantato tantissimi artisti, resa famosa da Emigrant, è un pezzo che io amo tanto, quindi ho voluto inserire anche questo. E la quinta traccia è Silent Night. La famosa Silent Night. Una versione un pochino diversa, nel senso che quasi tutte le canzoni sono tracce fatte piano voce, quindi per questo brano è stato fatto un arrangiamento un pochino diverso. Qui l'hai sentita a cappella, fatta dalla sì, band qui. Possiamo dire la band, Alessandro? Purtroppo non le ho potute ascoltare, però ho sentito un pezzettino e direi che inizio a seguire, perché sono veramente bravi. Troppo gentile. Te li faremo conoscere quando verrai qui, va bene? Bene, grazie. Ricordiamo che Elodea, tra l'altro, oltre a vincere qui a Padova, è nata a New York, ha partecipato al Festival della Musica Italiana lì a New York e l'ha vinto anche lì. Addirittura, sì. Complimenti. Aspetta, complimenti. Grazie. No. Diciamo che non mi sono accontentata. Direi che hai fatto bene. Ma è giusto così. No, scherzo, però dico, bisogna provarci sempre nella vita, quindi a volte va anche bene. Noi siamo veramente fieri di Elodea, perché è venuta qui, l'abbiamo fatta intervista ancora a marzo, aprile, quando era che sei venuta? Aprile, la prima volta aprile, sì. Poi gli ho detto del concorso qui ad Abano, è venuta, ha partecipato, ha scritto una canzone apposta per questo concorso e poi l'ha vinto qui a Padova, che Marco lo sa, c'era, e poi è andata a New York per questo Festival della Musica Italiana a New York e l'ha appunto vinto anche lì. Quindi è un orgoglio anche per l'Italia, insomma. Perché sì, Stavi dicendo, Agostino, ti interrompo, stavi dicendo Sanremo. Sì, esatto. Sì. Hai intenzione di andare a Sanremo? Sì, proprio oggi hanno caricato la mia canzone col video su Sanremo Social, che quest'anno è cambiato, diciamo, viene fatto su Facebook. Sì. L'hanno caricato oggi, ma ho scritto una canzone anche per questo, sì. male che vada, resterà il video, sarà anche il prossimo singolo. E ci proviamo, vediamo come va. Dobbiamo votarti? Cioè, sì, votatemi, Sanremo Social e Lodea, solo per gioco. Il titolo della canzone. Andremo a guardare e a votare. Assolutamente. Ve la passerò come grazie amicizia, va sì, bene. Va bene, Lodea, noi ti ringraziamo, anzi io grazie ti ringrazio a voi. Ti ringrazio anche della disponibilità musicale, insomma, questo disco è veramente splendido, io l'ho ascoltato, fa mi è piaciuto piacere. Subito, te l'ho scritto anche su Facebook, come hai visto, e ho scelto questa canzone perché secondo me è anche molto allegra, è molto spensierata, ci sì, vuole molto. Un po' di serenità ci vuole in questo periodo, perfetto. Quindi. Mi hai tolto le parole di bocca. E Lodea, un bacione, un grande bacione abbraccio. A voi, tanti auguri di buon Natale a tutti, a te e a Maurizio e ai ragazzi che ci sono lì. Grazie. Davvero, grazie, anche un bacione. Ciao, grazie. Ciao, Lodea. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hand there just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your my hurry? Family and the best in the floor. Listen to the fireplace so roar. Really are the baddest carry. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just have a drink more. Put some music on while I pour. Then evil might think, but maybe it's bad out there. Say what's in this drink? No caps to be hid up there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. Despair. I'll take your hand, your hair looks I well. I had to say no, no, no, might sir. A little at closer. Least I'm gonna say that I drive. What's the sense in hurting my pride? I really can't say. But baby, don't hold out. But out it's cold outside. Cold outside. The answer is no. Baby, it's cold outside. This welcome has been I'm lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look so delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My baby and the mind is a gosh, vicious. Your lips look delicious. Well, maybe just have a drink more. Never such a blizzard before. I've got to go home. Oh, baby, it freezes out there. So let me hear a call. It's up to your knees out there. You really big grand. Your eyes are like starlight but now. Don't you see? How can you do these things to there's me? There's bound to be talk tomorrow. Making my life long so at least there will be plenty in plan. You get premonition and I really SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era Elodea con Baby It's Cold Outside, da questo suo disco che EP di 6 canzoni che lei ha prodotto proprio in questi giorni. Chi lo volesse richiedere, vi ricordo, basta andare nel sito suo e lì lo può avere gratuitamente. Quindi è un omaggio che vi fa questa grande artista bresciana che è venuta spesso a trovarci e che noi siamo particolarmente affezionati. Questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara, vi ricordo ancora una volta, stiamo regalando questa maratona dedicata alla musica natalizia. e non solo, perché a volte sforiamo in qualche altro sound, un po' di soul, un po' di gospel, esatto, un po' di rock, un po' di rock. Non fa mai male il rock, fa sempre bene alla salute. Esattamente. A proposito di rock, Alessandro mimava la nostra sigla prima, sì. Tu non l'hai visto, mimava la sigla, non c'era la batteria, però la potevi fare lo stesso. Potevo farla. Potevi farla, quando il prossimo stacco la fai la batteria direttamente live. Io voglio Andrea adesso però, perché non c'è nessuno, magari lo danno per disperso o per sconosciuto, ma lo facciamo sentire. Ci sei, Andrea? Mi sì, senti? Ci sono. Ciao, eccoti Lucino, qua. Ciao, benvenuto anche a te, anche se te l'ho detto prima, ma insomma non ti abbiamo ancora sentito parlare, era giusto dare spazio anche alla tua voce. Allora, che ci racconti, Andrea? Che vi racconto? Sì, niente, sono stato chiamato, anche ho accettato con molto piacere questa chiamata da parte loro. E devo dire che hanno delle voci fantastiche, ho sentito subito un impasto vocale che mi è piaciuto e niente, da lì si è creato anche un clima di lavoro, chiamiamolo così, un clima molto, molto bello, molto, molto posato, tranquillo, non senza tanti ghirigori che, come si sa, in queste situazioni capitano moltissime volte di gente che ha molti grilli per la testa, però insomma mi trovo bene con loro, ecco. Benissimo, tu fai parte da pochissimo di questa band. Sì, questa è la terza uscita. Quarta data. Sì. Ecco, sì. Ma anche tu fai parte di altre esperienze? E io ho fatto parte di tantissime esperienze musicali, poi... Cosa vuoi? A un certo punto si fanno anche delle scelte, certo, di vita, e nel caso mio ho ridotto un po', diciamo, il giro tra virgolette grosso per seguire cose magari meno importanti, meno conosciute, ma senz'altro la qualità non ha niente... Non c'è niente in meno qualitativamente, certo, delle situazioni grosse. Ricordiamo che Andrea ha fatto anche un disco anni fa, giusto Andrea? Ma tanti anni fa. Io lo so, lo so, c'è un uccellino che me lo spiffera ogni tanto. Dove l'hai scovato? Che siamo andati in cerca dappertutto in internet a trovare qualcosa di Andrea. Siamo riusciti. Con il microdisco, lui anni fa hanno fatto un disco, appunto, Giro di Parole. Sì. Microdisco, come dice il cantante, lasciamo spazio alla musica, conteniamo tutto anche nel nome. Vabbè, insomma, Andrea, grazie anche a te di essere venuto, insomma. Grazie a voi. Io devo fare i saluti a voi tutti da parte di Evelyn Comellato, che è una carissima amica, una cantante, lei fa un po' di jazz. Forse Alessandro la conosce. Sì, infatti mi stava tornando il microfono. Un bacione, Evelyn, ciao. Ciao Evelyn, un bacione grande. Ciao, grazie. Ciao. E buon Natale anche a te, ovviamente, ai tuoi cari. Allora, adesso? E adesso c'è un altro pezzo molto interessante. Lo vuoi presentare te? Posso spendere due parole? Sì, ma certamente. Scusa, puoi ripetere come si intitola questo brano? Lì non mi. Wow! Io sono tanto legata a questo pezzo. Adesso faccio un attimo l'egocentrica, sì. Scusate. Prego, Laura. Caso c'è in scaletta anche l'altro? Quale? Aspetta, quale l'altro? Quello alto, quello della montagna. No. Quello non c'è. Se vuoi però ti fa volentieri un acuto, sì, così a cappella. È un urlo a cappella. Aspetta, no, non dargli degli input. Dobbiamo saltarci. Ago. No, Lean On Me è uno dei primi pezzi che ho imparato di gospel. E avevo 17 anni. L'altro ieri, praticamente, cioè non è passato tanto tempo. Sì. A Rita piace tanto fare sempre questa battuta, è una delle più gettonate. Però lo possiamo dire di cosa facevate parte, dai, lo diciamo, insomma. Tu, dopo. Lo diciamo dopo, verso la fine. Grazie. Vabbè. Troppo forti di una setta. No, vabbè, no, non c'entra niente. Però vabbè, dopo volentieri lo diciamo. Sì, vabbè. Però mi fai 30 secondi dell'altro, sì, vero? Di cosa? Della montagna lì. Nella persona. Chiedo scusa a chi sta ascoltando per le pause lunghe di silenzio che si sentono. Alla Celentano, insomma. È per creare un po' di suspense. Ce la fai o non ce la fai? Ce la fai prima? Sì, ve la fa, ve la fa. La fai adesso, in 30 secondi? Maria Santa. Espressione tipica siciliana. Se ti creo problemi, io mi fermo. Solo l'intro. Quello vuoi. Puoi andare. No, no, lascia aperto. Vai, vai. Got so much to thank my God for so many wonderful blessings and so many open doors. A brand new mercy, a long way, a brand new day, and that's why I praise you and for this. I'll give you a praise. E poi mi dici Maurizio, eh? Bravo, bravo, bravo. Dai, ammetto un po' di emozione. Laura, grazie, perché questa è la canzone che ci accomuna, nel senso che io ho voluto veramente fortemente conoscerti proprio per questa canzone, perché mi è piaciuta fin dalla prima volta che ti ho sentito. Grazie. È stata una cosa pazzesca, poi dal vivo sei ancora più eccezionale che non da disco, ma insomma... Basta, dopo avermi fatto cantare questa cosa così di sorpresa non ti voglio più parlare, te lo dico. Ma noi siamo amici da tanto tempo, quindi insomma sei una carissima persona per me, lo sai. Va bene, a parte gli scherzi, adesso grazie di questo intro di Forever Mountain, che è un pezzo vecchissimo tra l'altro, anche se non sbaglio. Penso che abbia una ventina d'anni. Sì, sì. Ormai è diventato un cavallo di battaglia del gospel in generale, insieme a Total Praise, uno dei pezzi più importante. Un brano di punta, direi. No? Sì. Certo. Va bene, allora parlavamo a proposito di gospel, di Lean on Me. Esatto, che è il brano che andremo ad ascoltare adesso. Volevi presentarlo un secondo, te? No, oltre alla mia presentazione personale e un po' sentimentale del pezzo, anche questo è un pezzo che è nato un po' con noi. Penso che sia stato uno, correggetemi se sbaglio, uno dei primi pezzi brani introdotti in scaletta. Sì, gospel, sì. Ok, l'ascoltiamo. Somebody to lean on me

danger now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ci siamo ascoltati anche un classico. When a Child is Born, quando un bambino è nato, insomma. Da chi? Cantato da chi? Questo era Johnny Mathis. Johnny Mathis. Bellissimo. Questo è un pezzo che poi ricorda vagamente quello dei non vagamente, moltissimo, anzi è la copia di quella dei Daniel Santa Cruz Ensemble e Soleado. Sì, dovrei dire certe cose su questo pezzo, sì, ma non importa. Non lo dico. Sono passati molti anni, è stato un successo mondiale quello di Daniel Santa Cruz Ensemble. Certo. Assolutamente, però insomma, vabbè, ok. Passiamo oltre, come si dice. Passiamo oltre. Okay. Benissimo. Allora, questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino con Maurizio, lo ricordo per l'ennesima volta, stiamo ascoltando i White Voices, che sono cinque simpatici ragazzi che sono venuti a trovarci per regalarci queste ore di musica natalizia, insomma, ci siamo ascoltati un po' di gospel. A proposito di gospel, tu Rita dovresti conoscere qualcosa, eh? No, io non conosco niente, in realtà ho cominciato a cantare. La Laura mi ha regalato quando... 30 secondi di Forever Monty. Adesso tocca. No, se vuoi io ti canto tanto Pino Daniele, no, in questo momento. Regalami 30 secondi di Now Be Old Land. No, non posso senza non l'Antonella Cozzolino. Ma l'Antonella fa la seconda parte. È appunto per quello, mi è venuto in mente perché la cantavi in due. Non mi ricordo neanche bene le parole, guarda. Si dice sempre così. Sì, si dice sempre. Dai, 30 secondi. Dopo volentieri ti canto I So Pazze di Pino Daniele, quello... Te lo canto volentieri. Oh, sì. Poi fanno anche adesso se vuoi. Sai. Dopo, dai, dopo. Dopo. Mi devo riscaldare. Ah, va bene. Allora, cosa ci avete fatto ascoltare prima di When a Child is Born? Lean on Me, appunto diceva Laura, sì, essere un brano gospel. Certo. Adesso ritorniamo un po' al Natale, se avete voglia, se avete piacere. Certo. È un brano conosciutissimo, un classico vendutissimo, il disco più venduto. Prima della versione di Lady Diana, cioè l'omaggio a Lady Diana di Elton John. Bing Crosby, White Christmas, lo conoscono tutti? Credo proprio di sì. Assolutamente. Chandelier tonight. Santa, il cuore esulta d'amore. È Natale Io non dico niente, però se qualcuno guardava le webcam della radio, vedeva che mentre cantavano questa canzone c'era una neve che cadeva, addirittura aveva riempito i microfoni, le cuffie, sopra i calendari, i poster, eccetera. Veramente splendida. Giusto anche per dire che chi volesse sentire e vedere questi artisti che stanno cantando in questo momento, basta che andate nel nostro sito, cioè www.bluradiovaneto.it, cliccando su diretta video potete facciamo un nome, Michele, grazie. Cosa stavo dicendo per soffrire il discorso? Se vogliono ascoltare, possono andare nel nostro sito, c'è la diretta audio, esatto, diretta video, e ringraziamo i nostri due tecnici che è venuto qui a tirarmi le orecchie perché non lo dico. Allora un grazie a Michele, Michele Rosone, a Michele Tosolo, regista del mercoledì sera, e a Roberto Badi, che è quell'autore tecnico, insomma, delle telecamere, delle webcam, meglio dire, insomma, che state vedendo in questo preciso istante. Ragazzi, volevi dire qualcosa? Sì. Perché White Christmas? Volevo soltanto spendere due parole per la preparazione di questo brano che abbiamo appena fatto. È stato un brano sul quale abbiamo lavorato veramente tanto. Devo dire che fa la differenza ascoltarlo a tre voci, ascoltarlo a quattro voci, perché l'abbiamo preparato per il concerto di Natale, per il 4 dicembre. Ascoltarlo a quattro voci fa un effetto ancora più caldo, se è stata calda questa versione, non so. Se è stata abbastanza, insomma, dolce e certo che è stato dolce. È coinvolgente. E niente, l'abbiamo preparato, ce l'ha preparato Marco, in realtà ha tirato fuori lui tutte le nostre parti, abbiamo lavorato duro, sodo, ed è stato il brano forse più bello che abbiamo preparato, proprio quello che abbiamo sentito principalmente. Quanto ci avete messo? Non lo so, Marco, quanto è che ci abbiamo messo per tirarlo fuori? In anni, eoni, luce. No, in realtà è stato molto sofferto, perché siamo abituati comunque a armonizzazioni tutto sommato abbastanza standard, diciamo, non troppo complesse. E invece questo brano, nella versione in cui l'abbiamo fatto, ha un'armonizzazione, insomma, un po' più classicheggiante, e dove ovviamente una parte o la sai o non riesci a riprendere. Ad improvvisare come fai di solito, Marco. Esatto, infatti il problema era mio. Cioè. posso dire una cosa, Marco? Secondo me il nostro pianista ha fatto una versione quasi finale swing, molto swingata, nella parte centrale del pezzo. Cosa dici? Non sei d'accordo? Sì, la solo, sì, la solo era molto, ma in realtà è molto swing, secondo me. Questo danzare, questo correre sui tasti, molto swingato, secondo me. La rende anche un po' più leggera, la rende più leggera. Esatto, da proprio è perfetta, quindi è un brano difficile ma fatto con molta dedizione, con molto cuore. È quello importante. Bing Crosby si deve sentire, si deve ascoltare, si deve interpretare in una certa maniera, che era Bing Crosby, è un nome tutelare dei canti natalizi. Come ripetiamo, è stato il disco più venduto della storia dei singoli natalizi, superato da quello di Elton John, ma è un altro par di maniche, però quello rimane. Marco, okay? Tu che improvvisi sempre. Ecco, giusto, non ci improvvisi Michael Jackson. Vai. Vi improvviso Michael Jackson. Sì, cosa ci vuoi dire? Tu che ami Michael Jackson. Un attimo solo, devo ricollegare le idee perché... Ti faccio intanto, ti leggo un messaggio che è arrivato in questo momento. Oh, fantastico, mi dai giusto il tempo. davvero bravi sti ragazzini, complimenti dalle terre feltrine. Ragazzi. Lo ringraziamo per i ragazzini, Grazie. Grazie. Ma in realtà dai, insomma... Siamo giovani, sentiamoci giovani finché possiamo. Giovani, abbiamo un... Hai trovato qualcosa? Sì, attenzione, Rita di solito è il canzoniere, quindi lei sta pensando... Io intanto ti regalo questa cosina qui finché tu pensi, va bene? Ok, grazie. Nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow with fun, hard to sleep tonight. They know that of a lie. la canzone di Natale, Marco, con Toni Braxton, e c'era anche una piccola parte con Michael Jackson, il tuo idolo. Yeah. Mi correggo, non siete ragazzini, siete ragazzi, ho letto io male il messaggio. No, ma è bello perché... L'abbiamo preso come complimento, comunque. Saravamo illusi. Allora, dai, ci fai 30 qualcosina di Michael. No, più di 30 secondi, più di 30 secondi. 31, vai. 32. Vai. Looking out across the night time. See the wings slip aside. I hear a voice. I shake my window. Sweet seduction times to get me out into the nighttime. Was one told me tonight, if this town is just an airport, to let me take goodbye. If they say why tell them that it's in my nature. Why does it do me that way? If they say why tell them that it's in my nature. Why does it do me that way? I like living this way. I like loving this way. Ci sta giusto il messaggio che è arrivato adesso. Dice: questo è il talento, queste sono le emozioni, non talk show poveri di ciò di cui abbiamo veramente bisogno, musica e valori. Bravi White Voices, a volte lo zapping alla radio fa qualche sorpresa. Buon Natale da Padova, Ale. Grazie. Prego. Non sei tu. Che bello, grazie. Questi messaggi. Va bene, questo cos'era? Questo cos'era, il tuo idolo? Ma in realtà è un grandissimo esempio. È un grandissimo esempio. Nella musica c'è, nella musica cantata, nel canto stesso, c'è la ritmica, certo. E pochi ci fanno caso. Michael Jackson è quello che è il personaggio che più rende vera questa affermazione, e che effettivamente insegna molto dal punto di vista ritmico nel canto. E te piace la Matti, insomma, Michael? Sì, mi piace. È difficile cantare un pezzo, di vivere, di sentire, di trasformare un pezzo di Michael Jackson. Cosa dici, Marco? Trasformare un pezzo di Michael Jackson credo sia una cosa veramente molto ardua, in realtà. Nel senso che ci abbiamo provato e spesso capita, forse non troppo stranamente, che anche noi ci stanchiamo, perché in realtà è difficile renderlo in un altro modo. Alle volte veramente sembra quasi di rovinare il pezzo, e sì, alle volte prendi, lo metti via e dici ok, per un pezzo non lo facciamo più. Sembra tutta un'altra cosa e non rende merito a quello che è. Anche a livello corale proprio credo sia veramente difficile da cantare, soprattutto per quello che diceva prima, per la ritmica. E sì, è meglio non avvicinarci a volte, cioè è meglio lasciarlo stare e dire grazie, ti ringraziamo. Un saluto dalla Lombardia e dalla Sardegna. Rita ci sta ascoltando, si chiama come te. Si chiama come me, infatti ho detto no, non sono in Sardegna. E invece dalla Sardegna, Marilisa dice: vi giunga il mio augurio di un Natale sereno a voi e ai vostri cari. Un grosso abbraccio. Grazie, tanti auguri. E poi che c'era? Beh, live l'abbiamo salutata. E a questo punto io direi far ascoltare Maurizio. Sì, abbiamo scelto, prima di continuare l'esibizione live, da un disco di Joan Baez, si chiama Noel, 64, quindi un po' di anni fa. Però... O Come Emmanuel, pezzo classico, un classico della tradizione anglosassone, la voce meravigliosa e molto giovane dell'epoca di Joan Baez, dà una colorazione particolare a questo pezzo meraviglioso. Adesso lo sentiamo assieme, ok? Rejoice, rejoice. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Lei è sempre così particolare. Io, Maurizio, grazie a te, grazie a John Paez, devo salutare loro e anche te. A te ti chiama il compare, il tuo idolo musicale, la tua voce che ami, che ti fa John Paez quando vieni qui a cantare, ti saluta caramente. Grazie. Si chiama Anna Tosato e vi saluta a tutti quanti voi. Ciao, ciao Anna, ciao. Allora, questa era, Maurizio? Era Noel, O Come Emmanuel, da John Baez. Noel, un disco volutamente fatto da John Baez per ricordare, per cantare, per dare una sua colorazione ai canti di Natale tradizionali anglosassoni, che sono meravigliosi, secondo me. Poi la voce di John Baez, anche adesso, nonostante non abbia più l'età di 30-40 anni fa, è una cosa sempre splendida. Io, visto che siamo in America con la grande John Baez, ne approfitto per fare l'ultima esclusiva che abbiamo, insomma, per quanto riguarda le musiche, cioè salutare Danny Newton e Merlin Berglas, che ci stanno ascoltando dall'America, appunto. Ci hanno fatto avere queste tracce da questo disco, scritto e musicato interamente da Merlin Berglas, canta invece Danny Newton, che tra l'altro è una nostra collega perché lavora anche in un emittente. Ha una voce bellissima, adesso la sentirete, e ci ha regalato appunto queste tracce. Questa che io propongo si chiama Christmas Every Day, cioè Natale tutti i giorni, insomma. Quindi un saluto a Danny, ciao Danny, ciao Merlin, grazie per la vostra partecipazione, tra virgolette, con queste canzoni, con le vostre canzoni, qui a Blu Radio Veneto. Siamo molto felici di potervi salutare dall'Italia e vi facciamo i nostri migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo, con un bacio, un abbraccio e un buon ascolto. E ovviamente, se capitate da queste parti, se passate per l'Italia, insomma, veniteci a trovare qui a Padova. Hello Danny and Merlin, thanks for the unique music of your song. We are very happy to welcome you from Italy. Blu Radio Veneto makes you best wishes for a Merry Christmas and Happy New Year. A kiss and hug, good listening, and we are waiting in Italy. I don't miss the mistletoe, trimming of the Christmas tree, stockings on the fireplace, as long as I can see your face. Angels must have heard my prayer when I saw you standing there. Suddenly it all came true. could what I feel for you. It's like Christmas, what a wonderful surprise. I finally found a miracle, and it's right before my eyes. Yes, it's Christmas, it's Christmas every day. Your love's the one gift I'll never give away. Caroling by candlelight, holding you all through the night. Never knew that this could be everything and more to me. Candy canes and sugar plums, falling just so much in love. I can hear the angels sing, I can't believe it's happening. It's like Christmas, what a wonderful surprise. I finally found a miracle, and it's right before my eyes. Yes, it's Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il potere di Facebook e di streaming che ci permette di essere in contatto anche con l'America, quindi è un piacere per noi, per non dire Blu Radio Valento, ma penso anche per voi, insomma, sapere che ci sono questi artisti americani che vi stanno ascoltando. Sì, complimenti, certo. Bellissimo. Quindi ciao ancora a Danny Newton e a Merlin Berglas che ci stanno ascoltando da Omaha, se non sbaglio. Allora, Maurizio. Sì, adesso cosa avete deciso di suonare? È un altro pezzo che devi presentare te, mi hanno detto. Sì, sembra l'unanimità che io sia stata scelta per presentare i pezzi di questo musical. Di questo musical. E, un altro pezzo che abbiamo introdotto quest'anno e in particolare appunto in quest'ultimo mese, e in cui ci siamo trovati a lavorare a quattro voci, appunto sempre con anche grazie a Antonella, il suo contributo alla sua voce possente, nera, e, che ha dato, e, ci ha dato modo di preparare questo pezzo che fa parte sempre del film Sister Act 2, e, un pezzo molto energico e conosciutissimo, Joyful Joyful, e, che adesso proveremo a rendere comunque a tre voci e con la stessa energia, che tra l'altro è un pezzo che ci coinvolge tantissimo questo, quindi qui qualcuno si lamentava che ci muoviamo tanto e che non è possibile farci neanche una foto. Ecco, questo è giusto un pezzo per cui non, non sarà possibile fotografarci. Ok, ascoltiamo. Blu Radio Veneto. Dai. joyful joy, full of hope with thee. God of glory, Lord of love, as love falls like flowers before thee, at the as the sun above. Mellow clouds, seen and said, visto che carica Maurizio. Bravi, bravissimi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Sono eccezionali. Carica ma... veramente una carica strepitosa, proprio sì. Noi, io ero seduto, ma come mi muovessi praticamente. Questo, vedete, questo è il gospel. La forza della musica, la forza del coro, degli impasti vocali, quello è importante. Quanto ci avete messo per portare avanti un discorso, un pezzo simile che è abbastanza complesso, fatto a tre voci stavolta, non a più voci. Allora. Marco. Allora. E poi la Rita, dai. E poi tutte e tre, insomma. No, in ogni caso, questo è un brano che effettivamente ha anche una certa complessità. Sì. Anzi, è molto complesso. La versione che facciamo noi è semplificata, nel senso che ci sarebbe anche una parte più bassa che dovrei cantare io. Ok. Che però effettivamente stona se manca la parte, diciamo, contraltistica del brano. Quindi abbiamo preferito scremare la parte più bassa per mantenere più che altro l'energia del pezzo intatta, insomma. Certo, è un pezzo da grande impatto, quello sì. Sì, un pezzo che come si dice, buca, assolutamente. Sì, sì, poi insomma è proprio il tipico pezzo che ha un grande climax, parte con una parte ovviamente molto intima e tranquilla e poi sfocia in qualcosa che è Esattamente, di coinvolgimento totale. Potente. Esattamente. Sono bravissimi. Indubbiamente. Stanno facendo delle cose molto molto belle, molto interessanti e tutte in diretta. Quello è il bello, tutte in diretta, è bellissimo. Io avrei un regalo per voi. Però se voi avete qualche altra canzone già pronta, la potete cantare. Cosa volete fare? Beh, dai, facci questo regalo, noi piace. Siccome Natale. Voi amate il gospel e se l'avete nel sangue, come sottoscritto che amo veramente, c'è questa canzone che mi fa impazzire. Non è Forever Monday, non ti preoccupare, non guardarmi male, Laura. No, mi fai paura. Bellissima canzone, è una bellissima canzone. Vi dico solo, e poi vi dirò il titolo, ma tanto lo saprete già la prima nota. Questa canzone è stata fatta da un ex, diciamo, padrone, commerciante di schiavi, che mentre faceva questa traversata, questa dice la leggenda, ha pensato di scrivere questa canzone e poi si è convertito. Ve la propongo nella versione di un coro gospel americano, pescato nella mia discografia, è una collezione vastissima di dischi, e c'è questo pezzo apposta per voi cinque. Va bene? Grazie, Ago. Grazie. Amazing grace, oh how sweet a sound that saved a wretch, Lord, like me. Oh, I once was so lost, but now I'm found. I was blinded, but now I see. It was grace that taught my poor heart to feel, and grace my fears relieve. Oh, how precious God's grace first appeared, the hour I first believed. Amazing, how sweet a sound, Lord, that saved I once was so lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Many a danger, toils and snares, I've already, Lord, I've already come. Oh, with grace has set my poor spirit free. Lord, the moment I first believed, oh, amazing grace. On such a wretch like me, oh Lord, I once was so lost, but now I'm found. I was blinded, but now I see. Oh yes, I do. Was lost, but now I'm found. I was blinded, but now Questo era il coro gospel originale americano, Original USA Gospel Choir, con featuring, meglio dire, con Joan Corleans, la voce femminile che avete sentito. Una canzone che mi piace tantissimo. Non bellissima so voi. Bellissima versione, stupenda. Era ovviamente Amazing Grace, insomma. Bella, bella. C'è un classico presentato da un sacco di gente. Sì. Noi che siamo rockettari, Alessandro, ci ricordiamo la versione di Rob Stewart. Okay. Ecco, oh yeah. A proposito di questo, il coro che stava dietro all'Amazing Grace adesso era un mass choir. Ah, vedi. Okay. Quindi ecco. Quello è il coro di massa. Per tutte le informazioni sui cori gospel, www.marcomengato.com, troverete tutto sul suo blog, vi spiegherà cos'è un mass core, un core mass e molto altro ancora. Grazie Ade per aver svenuto tutta la mia... Marco, vogliamo dare spazio solo alla tua voce, cosa dici? Spazio solo alla mia voce? Sì, quella cosina che tu... Cosa dici? Lo facciamo? Sì, dai Marco, facciamolo, dai. Famolo. Facciamolo strano. Famolo strano. E dopo probabilmente sì. Stiamo scadendo, sono le 23.08. Dacci tu le informazioni, dai. Le informazioni, questo è un brano che ho scritto io, è un brano che potete tranquillamente rubarmi, perché tanto alla fine non l'ho scritto per fini economici, ma per fini... privati, personali. Esattamente. Quindi nell'eventualità vi piaccia, fate quello che volete. Poi al massimo però casa vostra, fa niente. No, comunque sì, ecco. È un brano che dedico ad Alice. Ciao Alice, un bacione grande grande anche da parte nostra di tutta Blu Radio Valenza, soprattutto da parte mia che ci conosciamo mai dalla vita che è con lei, insomma. Esatto. Il titolo si chiama? E in realtà non ha un titolo. Quindi la presento proprio come una canzone non titolata. Non titolata. No, nel senso che Alice Love. When I first saw you, I'm not afraid to be. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Scritta e musicata da te? Sì, sì. Ho fatto tutto io con le mie manine fonfe, come dice papà. Marco Mengato. È un boss, eh? No, no, assolutamente. Guarda, un boss. È solo una cosa che è uscita dal cuore e ho tentato di metterla molto umilmente in musica, tutto lì. Ciao a tutti gli White Voices e un saluto al batterista. Per Marco, capisci, sì, ti dico per sempre. Ciao Ago. Alice. Grande Alice. Ciao Alice. La dedica ciao. È arrivata. La dedica è arrivata, hai visto? Alice che adesso sono ammutolito un attimo. Passi in farmacia, Alice prende i fazzoletti, Marco qui è commosso. Bellissima comunque, bellissima. Hai scritto tu, proprio musicata, scritta. Sì, sì. Sì. Complimenti. Grazie. Ok, adesso passiamo, dopo il pezzo di Marco, passiamo a un classico. Questo è un classico che abbiamo sentito anche nella versione di Joan Baez, noi, che c'è in questo disco in Noel. The First Noel, vi do qualche riferimento alle origini del pezzo. The First Noel è un canto tradizionale natalizio inglese, originario probabilmente della Cornovaglia, qualcuno dice anche forse francese, che venne pubblicato per la prima volta nel 1823. E da un certo Davis Gilbert. Aria sulla quarta corda, bellissimo. Puoi andare avanti, è una cosa meravigliosa. Guarda che si commuove Maurizio, continua, continua. Era meraviglioso, il sottofondo di aria sulla quarta corda fa sempre bene alla salute. Io a Sebastian è sempre lui. Come siamo pronti allora per fare questo pezzo bellissimo? Ok. Siete pronti? Io vi ricordo sempre comunque i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se ci volete mandare qualche informazione, insomma qualche saluto, qualcosa ai White Voices, vi ricordo il 346 23 20 0 33. And there's so awesome. Sì, dobbiamo dire una cosa, che sono stato io che ho forzato i White Voices a fare questo pezzo e mi ha molto emozionato, perché voluto fortissimamente da me, sono stato molto molto soddisfatto e io li ringrazio infinitivamente, perché con molto, perché entra dentro certi pezzi, certi canti, certe tradizioni entrano dentro, e a me First Noel, fatto in tante versioni, ma anche fatto una versione stasera dei nostri protagonisti, dà un certo senso alle cose. E grazie. Anche perché grazie. Alla fin fine sapere che c'è qualcuno che ha voglia di ascoltare qualcosa è una grandissima cosa. Davvero, cioè sembra una cosa scontata, però in realtà spesso ti trovi a suonare davanti a 100 persone, però alla fin fine sì. Ma quando il messaggio quando entra, sai che quando c'è qualcuno entra, che in realtà si aspetta qualcosa, forse è ancora più soddisfacente poi farlo. Sì, ma quando, come detto prima, il messaggio entra, è fondamentale. Ed è a me è entrato, e spero anche sicuramente anche ai nostri ascoltatori. Siete già pronti per la prossima? Ci avete preparato un mix, se non sbaglio, un medley? Abbiamo preparato due classici che abbiamo deciso di unire insieme. E è stato un po' un parto anche questo, perché nei medley è l'unione di alcune canzoni in particolare, come può essere stata magari per prima quella dei Toto, anche quella, ne usciamo dall'ambito natalizio, ha richiesto un po' di lavoro, perché chiaramente canzoni diverse hanno bisogno di ricevere una continuità e nel momento in cui fai un medley, e cercando il più possibile di essere lineari, e quindi anche in questo caso, pur essendo le canzoni tra virgolette banali, conosciutissimi, dei traditional conosciuti da tutti, però il fatto di rendere qualcosa di diverso, soprattutto perché è un brano tradizionale, anche in un medley ha avuto il suo lavoro. E in questo ammettiamo che, sempre nel lavoro che abbiamo fatto per il concerto di strada il 4 di dicembre, anche questo medley l'abbiamo rivisto e l'abbiamo risistemato, perché ha comunque anche a quattro voci, va rivisto un po' tutto dell'impasto vocale. Ok. Jingle bells ring, snowing and blowing and bushels of fun. Now the jingle up has begun. Jingle bells, rock. Jingle bells chime in, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Oh, jingle bell, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up, bushels of fun. Now the jingle up has begun. Oh, jingle bells, rock. Jingle bells chime in, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the white horse sleigh. Yes. up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in a jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bonfire ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing and sing a song tonight. Oh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I drove out, take the ride, and saw Miss Fanny Bright. Well, she stand to the by my side. The house was waiting blank. Miss Fortune sees it's locked. It got him drifting back, and we went up our song. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful open sleigh. Catenati. Ah, bellissimo, bellissimo. E chi ci ferma più adesso? Chi ci ferma? Facciamo la reprise, facciamo la reprise un secondo, dai, vai, vai. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bravissimi. Sono bravi, bravissimi, veramente grandi, grandi, grandi White Voices qui a Blu Radio Veneto con Agostino Splore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con queste splendide voci, cioè Rita Muro, Laura Pirri, Marco Mengato, Alessandro Arcolin e Andrea Badam, giusto? Giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, yes. Giusto. Io torno un attimino, se mi consentite, per 2 minuti e 40 circa secondi in America con Danny Newton che ci ha mandato un messaggio, sta ascoltando, e quindi la salutiamo di nuovo, facciamo ascoltare una seconda sua canzone, questo suo disco, salutando appunto lei e anche Marilyn che ha scritto e musicato tutte le sue canzoni. Ci ascoltiamo questa Imagine Christmas, questa immagine di Natale. Imagine that you are beyond a Christmas star, a place where very few of us have been. Imagine while there's time, it's all there in your mind. This chance may never come again. Imagine you can fly like Santa across the sky, and suddenly your reindeer touch the moon. Now close your eyes and see how special dreams can be. That dream is just inside of you. Your Christmas world is stays, and memories of Christmas can come true. That moment is today, your heart will lead the way. Believe that it is happening to you. Imagine, imagine Christmas. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Danny Newton dagli Stati Uniti con questa canzone Imagine Christmas, cantata splendidamente da questa voce collega di una radio, insomma, di americana, che mi sfugge il nome, chiedo scusa umilmente, ma non mi ricordo più. Comunque canzoni, ripeto, musicate e scritte da Merlin Berglas. Io c'ho qualcosina qui da dirvi, allora, la Marilisa dice: veramente un bel programma, Agostino, con la diretta sembra di essere lì con voi. E vi fa i complimenti, ovviamente. Grazie. E poi dice: l'orgoglio della famiglia Mengato, questi sono tutti i nostri figli, li amiamo da morire. Ah, grazie, e quella è una seconda casa per noi. E viva il Natale a tutta la radio, grazie e tanti auguri. Grazie. Grazie, un abbraccione forte. Ecco, proprio te, Ale, che stai parlando. Eccolo qua. Eccoti. Sapevo io. Allora, mi devi cantare una canzone. So che hai una bellissima voce. Sì. Vai matto per i Dream Theater, cioè Wither, chiamiamolo voi. Wither. Wither. Oddio. Ce la fai? Ce la fai? Sì, allora ringrazio Alice, l'abbraccio con tutto il cuore. Io le voglio un gran bene, le auguro buon Natale. Però sì, dai, ce la fai. No, ma credo che con le tre voci che ci sono qua devo far sentire la mia. Certo, dice che sei una bellissima voce. Sì, quindi. Di solito allora fai, in macchina da solo ho una bellissima voce. Fai finta di essere sotto la doccia, via. Ok, allora mi dai un la bemolle settima. No, scherzavo. Era un accordo a caso. Dai, ma la devo fare davvero? Certo che la devi fare davvero. No, vi prego, deve farla davvero. No, certo. No, dai. Io abbraccio Alice, no, tanto bene. È bravissimo. No, ma non è vero. Era una battuta la mia. Sto studiando con Marco Mengato da qualche periodo, seguendo dai, sempre il suo blog. Ci avete deliziato tutti con le vostre voci, e che tu fai la tua parte, dai. Fare sì. Naubio al Belembe. Lo fai con me. Posto di rita. No, dai, questa la faccio volentieri. Facciamo un po' per ridere, per stare insieme, è Natale. Certo, certo. La facciamo però, rita, dai, la facciamo. Vuoi fare il ritornello? Quello che ti ho cantato prima. Sì, dai, lo facciamo. Dai, faccio finta di essere un po' più grosso, un po' così. Ok. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God, burning to sin. Eccola qua, tutta per voi. Now behold the Lamb. Un po' all'Antonella Cozzolino o Sissy Rogers, mi sono sentito un po' tutti e due. Via. Insomma, non ci fai sentire la tua voce reale. No, ma l'ho appena cantato, è una voce meravigliosa. Però è un pezzettino di una solo col pianoforte da parte di Andrea. Ti fai qualcosina? Apri il mixer, Marco. Sì, ma questa era più facile, però, come richiesta, sì. Non vale. Beh, insomma, lui c'ha quell'arma lì. Grande, grande. Kate Emerson 2. Com'è che fa Pino Daniele? No, dai, non te me l'hai promesso. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso. Però la facciamo bene se la sai. La sa? Vai. Sorpresa. Thank you. dove sono le tue mani e la tua bocca. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando. Siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso. Ed io sete, ho sete ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via. Fra i ricordi e questa strana pazzia, e il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando, quando. Brava Rita, brava Rita. Brava, bellissima Rita. Colonna sonora del film. Pensavo fosse Amore, invece era Anche Alesse. Uno dei miei film preferiti. Non lo sapevo questo. Bisogna dirlo, guardatelo con i sottotitoli, ma guardatelo. Non bellissimo. Non l'ho visto. Confesso. Massimo Troisi. Massimo Troisi, un grande Massimo Troisi. Allora, a questo punto, White Voices ancora adesso. Certamente. Sì, volevo intanto dire, se mi permettete, che per chi volesse appunto seguire i nostri concerti, di guardare sul nostro MySpace. Giusto. Oppure sul nostro indirizzo. Giusto. Facebook, perché in questi giorni avremo un bel po' di concerti anche a Villa del Conte, se volete venire in piazza, quindi andate pure a guardare le date. E seguiteci, ecco, abbiamo bisogno di voi. E noi vi verremo a sentire, insomma. Grazie. Siete bravissimi, quindi. Esagerato. Poi lo state dimostrando in questo dal vivo, così, insomma, in acustico, è bellissimo, insomma. Allora, cosa ci fate ascoltare adesso? Presento io? Sì, okay, ho capito. Va bene. Allora, questo è un pezzo che canteremo Rita ed io. E un pezzo che ci piace particolarmente perché, allora, Rita è cresciuta praticamente a Pane, Pino Daniele e Whitney Houston. Di solito estremi, questi sono stati i suoi alimenti da quando era in fasce. E, io non posso dire che sono cresciuta a Mariah Carey, perché le mie cantanti preferite erano altre. Io ho ascoltato tantissimo Celine Dion, Giorgia ed Elisa. Quindi penso che facevi un tributo anche tu, esattamente, Elisa. Però questa canzone che vi proponiamo adesso è un pezzo che è particolarmente nelle nostre corde, poi ci piace tanto perché risalta in un certo senso, adesso farò la romantica, l'amicizia che ci lega da tanti anni e quindi ci siamo particolarmente legate, abbiamo deciso di prepararlo per questo periodo natalizio, penso che ce lo porteremo comunque con noi anche in altri concerti. La canzone si chiama? When You Believe, è la colonna sonora del Principe d'Egitto. Ok. Blue Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. We pray when no proof anyone could hear. He hurts our hope for some we barely understood. No, we are not afraid. I'll throw in no, there's much to fear. We were moving mountains long before you knew we could. somehow you will when you believe. In vain, old sins are like summer birds, swiftly flown away. But now I'm standing here, my heart so full, I can't explain it. Seeking faith and speaking words I never thought I'd say. Bravissime, bravissime. Con quale grinta, con quale predisposizione questo duetto tutto al femminile. Abbiamo un po' escluso Marco. Avete escluso Marco. Escluso Marco. Ma non mi offendo, perché in realtà mi piace ogni tanto ascoltarvi, quindi ogni tanto. Poi è venuto a trovarci. Ogni tanto. È venuto. Ormai è il callo. No, è sempre un piacere cantare con loro. È venuto a trovarci però qui in regia. Effettivamente, cioè, è nato, è cresciuto in situazioni corali, mi rendo conto, a partire da quando ero un nano da giardino. fondamentalmente ascoltare un coro da fuori, ascoltare un duetto da fuori è sempre comunque un'emozione, soprattutto se dal vivo, perché poi è chiaro che puoi ascoltare quello che vuoi. Vi leggo un messaggio che è arrivato poc'anzi, dice: mi avete fatto venire i brividi stasera, bravissimi tutti ed un saluto grandissimo a tutti da Don Leo. Ah, ciao Don. Ciao Don. È un vostro conoscente? Sì, sì, sì. Allora, non manca tantissimo alla fine di questo, e siamo a Natale. Io volevo, se mi permetti Maurizio, dedicarti una canzone a te e a tutti i nostri ascoltatori. Insomma. Certo, certo. Allora, prima di tutto volevo, siccome questa è la mia ultima trasmissione di quest'anno, poi ci risentiremo l'anno prossimo con il prossimo live, insomma, Prima di salutare, che poi sentiremo altre canzoni di White Voice, volevo ringraziare e salutare a nome di tutti i miei colleghi di questa emittente, cioè Blu Radio Veneto, i nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi, ci fanno veramente molto piacere, ci fanno sentire il loro calore, il loro affetto, e noi li ringraziamo. Quindi un buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, i vostri cari, da Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, da Mirko Cavallini, che è il nostro direttore, e poi da Francesco Galante, Eddie Daici, Michele Tosoni, il nostro regista, Fabrizio Ruzza, Stefano Denese, Flavio Bilato, Renato Ferro, Roberto Baldi, Marco Borgato e Simone Francesconi, oltre ovviamente al sottoscritto, cioè Agostino Sporore e a Maurizio Calzavara. E mi permetto, mi sono di fare ascoltare una canzone, prendo qui, andiamo in Scozia, ci sono le cornamuse, mi piace da matti questa canzone, sono i Wings con il boss, cioè Paul McCartney, Mall of Kintyre. Mall of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be on Mall of Kintyre. Far have I traveled and much have dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre. Oh, mist rolling in from the sea. My desire is always to be here. Oh, Mall of time. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo sentito questo pezzo natalizio di Paul McCartney, queste cornamuse, è proprio Natale, c'è poco da fare, proprio l'aria, proprio di quel momento. Yeah. Buon Natale ancora a tutti voi. Esattamente. Stiamo vedendo, stiamo vedendo cose molto, molto, molto, molto carine, stiamo molto divertenti. Stiamo vedendo in diretta lo streaming, che è emozionantissimo. Veramente. Ci sono io con... La Rita è stupenda, è diventata la mia percussionista di fiducia, veramente. Meravigliosa. Questo è quello che vedono a casa i nostri ascoltatori, insomma. Sì, sì, meraviglioso. Poveri, ciao a tutti. Cioè, poveri loro, insomma, che guardano. In realtà non, è normale la Rita, fa questi movimenti solo quando suona percussioni. Tranquilli, in realtà è una ragazza meravigliosa, ride, scherza come tutti. Ringraziamo che tutto opera del nostro staff, Roberto e Michele. Sì, bravissimi. Sì. Sono venuti qui apposta per regalarvi questa serata, insomma. Grazie. Allora dai, ci fate ascoltare una canzone? Sì, visto che abbiamo fatto due, non potevamo fare tre, sempre con il film Sister Act, e quello che vi proponiamo adesso è il pezzo trascinatore di folle per eccellenza, e I Will Follow Him. Ok, andate pure. Scatenante, poi tutto sono molto movimentato. Poi mi ricordo il film che l'ho visto tante volte, insomma, la Whoopi era eccezionale, insomma, in quella parte, sì. Anche loro stasera, però. È che loro stasera hanno finito, però purtroppo Maurizio sì. Sì. Ci siamo divertiti tantissimo. È volato il tempo con voi. Come sempre, come l'anno scorso, ti ricordi Laura? Abbiamo fatto tre ore in una maniera splendida. Allora, noi vi ringraziamo di essere stati qui questa sera. di aver partecipato a questa trasmissione dedicata a Natale. Ancora tantissimi auguri a voi e alle vostre famiglie di buon Natale da tutta Blu Radio Veneto. Grazie, grazie. E altrettanto grazie. Ci ritroveremo magari un altro anno. Sì, sì, li prenotiamo già. Per li prenotiamo già, segnatevi sul calendario. Fantastico. Ci salutiamo con Happy Christmas ancora. Grazie, grazie di tutto a voi per averci ospitato. Ricordiamo grazie, ancora grazie. I vostri dati prima di salutarvi. White Voices, ci trovate in Facebook o anche sul nostro la MySpace. Pagina, MySpace è www.voices, con www.myspace.com esatto, myspace.com/www.voices. Ok. Un grazie ad Andrea, Badam. Ciao. Il nostro mitico un attimo, pianista. Un grazie al prezzemolino, cioè Alessandro. E il prezzemolone, altro che grazie a tutti, un abbraccio, auguroni. Un grazie a Marco. E grazie a voi. E un grazie, grazie a voi, davvero. Grazie a tutte e due le femminucce, cioè alla Rita Muro e alla Laura Pirri. Grazie. Grazie, grazie. Alla prossima. Grazie. Buon grazie. Proseguimento e buon Natale a tutti. E un grazie per la vostra amicizia. Grazie. Ciao Maurizio, buon Natale, auguri. Altrettanto a te, auguri ai nostri ascoltatori. E auguri a tutti i nostri ascoltatori. Buon Natale. And so this is Christmas, and what have you done? Another year over, and the new one's just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the whole the day young. And very merry Christmas, so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones, the world and so strong. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and what have we done? Another year.